Ussilat. Esposti chiaramente. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. حميم. Ha Mim. تنزيل من الرحمن الرحيم. Rivelazione da parte del compassionevole, del misericordioso. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Un libro i cui versetti sono stati esposti chiaramente, un Corano arabo, per uomini che conoscono. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Annunzio e monito, ma la maggior parte di loro si sottrae senza ascoltare. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Dicono, i nostri cuori sono avviluppati in qualcosa che li isola da ciò cui ci inviti, e c'è un peso nelle nostre orecchie. C'è un velo tra noi e te. Fai pure quello che vuoi, e noi faremo quello che vogliamo. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. Di, io non sono che un uomo come voi, mi è solo stato rivelato che il vostro Dio è un Dio unico. Rivolgetevi a Lui e implorate il suo perdono. Guai agli associatori. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Che non pagano la decima e non credono nell'altra vita. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati lahum ajrun ghayru mamnun. In verità, coloro che credono e compiono il bene avranno una ricompensa che non sarà mai diminuita. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Di, vorreste forse rinnegare colui che in due giorni ha creato la terra e vorreste attribuirgli consimili? Egli è il Signore dei mondi. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Ha infisso sulla terra le montagne, l'ha benedetta e in quattro giorni di uguale durata ha distribuito gli alimenti. Questa è la risposta a coloro che interrogano. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Poi si rivolse al cielo, che era fumo, e disse a quello e alla terra, «Venite entrambi, per amore o per forza». Risposero, «Veniamo obbedienti». فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Stabilì in due giorni i sette cieli e ad ogni cielo assegnò la sua funzione. E abbellimmo il cielo più vicino di luminarie e di una protezione. Questo è il decreto dell'Eccelso, del Sapiente. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Se si allontanano di loro, vi do l'avvertimento di una folgore, uguale alla folgore che colpì gli Ad e i Thamud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Quando da ogni parte giunsero loro i messaggeri dicendo «Non adorate altri che Allah», risposero Se il nostro Signore avesse voluto che credessimo, avrebbe certamente fatto scendere gli angeli. Dunque non crediamo a ciò con cui siete stati inviati. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Gli Ad furono ingiustamente superbi sulla terra e dissero «Chi è più forte di noi?» «Ma come?» Non avevano visto che Allah che li aveva creati era più forte di loro? Negarono i nostri segni. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Inviammo contro di loro un vento impetuoso e glaciale, in giorni nefasti, affinché gustassero ignominioso castigo già in questa vita. Ma il castigo dell'altra vita è più avvilente e non saranno soccorsi. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Guidammo i Samud, ma preferirono l'accecamento alla guida. La folgore del castigo umiliante li colpì per quel che si erano meritati. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Salvammo solo coloro che credevano ed erano timorati di Allah. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Il giorno in cui i nemici di Allah saranno riuniti e condotti verso il fuoco, saranno divisi in gruppi. Hatta idha ma ja'uha shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Quando vi giungeranno, il loro udito, i loro occhi e le loro pelli renderanno testimonianza contro di loro per quello che avranno fatto. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. E diranno alle loro pelli: perché avete testimoniato contro di noi? Risponderanno: è stato Allah a farci parlare. Egli è colui che fa parlare tutte le cose. Egli è colui che ci ha creati la prima volta e a lui sarete ricondotti. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Non eravate celati a tal punto che non potessero testimoniare contro di voi il vostro udito, i vostri occhi e le vostre pelli. Pensavate invece che Allah non conoscesse quello che facevate. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Questa vostra supposizione a proposito del vostro Signore vi ha condotti alla rovina e ora siete fra i perduti. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Se insistono, il fuoco sarà il loro asilo. Quando anche accampino scuse, non saranno scusati. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Demmo loro compagni che abbellirono agli occhi loro il loro futuro e il loro passato. Si realizzò su di loro la sentenza che già era stata pronunziata contro altre comunità di demoni e di uomini che li precedettero. In vero, furono tra i perdenti. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. I miscredenti dicono: non ascoltate questo Corano, discorrete futilmente, forse avrete il sopravvento. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Certamente faremo gustare un duro castigo ai miscredenti e li compenseremo in base alle loro peggiori azioni. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Così il compenso dei nemici di Allah sarà il fuoco in cui rimarranno in perpetuo, punizione per aver smentito i nostri segni. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Diranno i miscredenti: Signore, mostraci coloro tra i demoni e gli uomini che ci traviavano, che possiamo calpestarli, che siano tra i più abietti. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gli angeli scendono su coloro che dicono il nostro Signore è Allah e che perseverano sulla retta via. Dicono loro: non abbiate paura e non affliggetevi. Gioite per il giardino che vi è stato promesso. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Noi siamo vostri alleati in questa vita e nell'altra, e in quella avrete ciò che le anime vostre desidereranno e quel che chiederanno. نزلا من غفور رحيم. Questa è l'ospitalità del perdonatore, del misericordioso. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Chi mai proferisce parola migliore di colui che invita ad Allah e compie il bene e dice: sì, io sono uno dei musulmani. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona. Respingi quella con qualcosa che sia migliore. Colui dal quale ti divideva l'inimicizia diventerà un amico affettuoso. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ma ricevono questa facoltà solo coloro che pazientemente perseverano. Ciò accade solo a chi già possiede un dono immenso. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E se mai Satana ti tentasse, rifugiati in Allah. In verità egli tutto ascolta e conosce. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. La notte e il giorno, il sole e la luna sono fra i suoi segni. Non prosternatevi davanti al sole o davanti alla luna, ma prosternatevi davanti ad Allah che li ha creati, se è Lui che adorate. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Se si mostrano protervi, sappiano che quelli che sono presso il tuo Signore lo glorificano notte e giorno, senza mai stancarsi. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Fa parte dei suoi segni la terra che vedi come affranta. Poi, quando facciamo scendere l'acqua, palpita e rigonfia. In verità colui che le ridà la vita è colui che ridarà la vita ai morti. In verità egli è l'Onnipotente. Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Non ci sono ignoti coloro che travisano i nostri segni. Colui che sarà precipitato nel fuoco avrà forse sorte migliore di chi giungerà con sicurezza al giorno della resurrezione? Fate pure quel che volete. Egli ben osserva quello che fate. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. In verità essi non credono al monito che giunse loro, eppure questo è davvero un libro venerato. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Non lo tange la falsità in niuna delle sue parti. È una rivelazione da parte di un saggio, degno di lode. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Non ti sarà detto altro che quel che fu detto ai messaggeri che ti precedettero. In verità il tuo Signore è il padrone del perdono, il padrone del castigo doloroso. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Se ne avessimo fatto un Corano in una lingua straniera, avrebbero detto: perché non sono stati espressi chiaramente i suoi versetti? Un messaggio in un idioma straniero ad un messaggero arabo? Di: esso è guida e panacea per coloro che credono. Coloro che invece non credono sono colpiti da sordità e da accecamento, ed è come se fossero chiamati da un luogo remoto. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Già adema Mosè il libro su cui polemizzarono. Se non fosse per una precedente parola del tuo Signore, sarebbe già stato deciso tra di loro. Sono invece immersi nel dubbio a proposito del Corano. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Chi fa il bene lo fa a suo vantaggio e chi fa il male lo fa a suo danno. Il tuo Signore non è ingiusto con i suoi servi. Ilayhi yuraddu ilmus sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Appartiene a lui la scienza dell'ora, e non c'è frutto che esca dal suo involucro, o femmina gestante o partoriente di cui non abbia conoscenza. Nel giorno in cui li convocherà dirà: «Dove sono coloro che mi associavate?» Risponderanno: «Ti informiamo che tra noi non c'è nessuno che lo testimoni». وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. E coloro che invocavano si saranno allontanati da loro, ed essi si renderanno conto di non aver nessuna via di scampo. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. L'uomo non si stanca mai di invocare il bene. Quando poi lo coglie la sventura si dispera, affranto. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Se gli facciamo gustare una misericordia da parte nostra dopo che lo ha toccato l'avversità, certamente dice: «Questo mi era dovuto». Non credo che sorgerà l'ora, e se mai fossi ricondotto al mio Signore, avrò presso di Lui la migliore delle ricompense. Allora informeremo i miscredenti di quello che avranno commesso, e faremo gustare loro un penoso tormento. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Quando colmiamo di favore l'uomo, egli si sottrae e si allontana. Quando invece lo colpisce una sventura, allora invoca a lungo. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Di, non vedete? Se questo Corano viene da Allah e voi lo rinnegate, chi sarà più traviato di chi si allontana nello scisma? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Mostreremo loro i nostri segni nell'universo e nelle loro stesse persone, finché non sia loro chiaro che questa è la verità. Non ti basta che il tuo Signore sia testimone di ogni cosa? Alla innahum fi miryatim min liqai rabbihim Alla innahu bi kulli shay'in muhit. Non è forse vero che dubitano dell'incontro con il loro Signore, mentre in verità egli abbraccia ogni cosa nella sua scienza?